De mezzo contai. De mezzo contai. E questa l'ora di parlare con Edison Chai. De mezzo contai. Ti devi abbandonare così nel Edison Chai. De mezzo contai. Tra le mie braccia ancora restare no, non potrai. Medicine time. Lasciarsi trascinare da quel medicine time. The medicine time. E dondolarsi ancora senza stancarsi mai. Meravigliosamente la mano nella mano stringimi e mettiti al mio fianco cullando il ritmo. Dammi mille baci con il medicine. E questa l'ora di sognare con medicine time. Medicine time. Ti devi abbandonare così nel medicine time. The medicine time. E dondolarti ancora senza stancarti mai. La mano nella mano stringimi e mettiti al mio fianco cullando il ritmo. Dammi mille baci con il Madison. E questa l'ora di sognare con Madison Time. Madison Time. Ti devo abbandonare così da Madison Time. Madison Time. E dondolarti ancora senza stancarti mai, mai, mai. The Madison Time.